se no non si mangia. Cucina, cucina, che ti fa bene. Quanto ne avrei voluto fare a meno, che... E prendi tu la ragazza, così cucina per bene. Una virineggia, che... Sei esagerato, perché te me io. Ma non so buono neanche a fare un pubblico di femmini d'oggi, che... E non ti preoccupare, già lo so fare l'uovo friscio. Vai, non so buono neanche... Non sono buono a niente le donne che ci sono adesso. Figliati una marocchina così, immagini tutti giù di viso. No, quelli sono, hai detto cazzo, chi si mangia anche sono i cinesi. E io anche dei geriani mangio tutti giù di viso, con l'aglio, con di tutto ci metto. Ma che li venga. E allora te magica. E anche la picchiviola usano me. Anche quella e anche quella usano. Dicono che è afrodisiaca. Fatto un natalino. Ma voi, cos'è che voi? Pure ci vuoi provocarmi adesso? Non manca quanto fa un poco. E allora? Sai che mi stiamo andando di che di mola, amiche, devo tagliare. Devi tagliare, dimmi tu, dimmi cosa devi tagliare, che tagliamo. Un poco di fumo. C'è la moretta io. E guarda, tanto non si è fatto più sentire, che sai che fine ha fatto? Io allora non si è fatto né vedere e né dimmi. No signori, io sono arrivato qua, ho parcheggiato e me ne vado a cucinare qualcosa, da mettere sotto i denti. Va bene, d'accordo. Guarda che non sia troppo dura, mi. Io già non la faccio dura io la cosa, già la faccio come si deve. No, anche se no te ne sarebbe tutti i denti. Io lo so che proprio la vita la metto tranquilla io la cosa. Gappa, e beh, son porco! Dimmi, caro, dimmi. Ah, Caruccia, quando mi dici così io mi emoziono tutto. Ah, che emozioni, eh? E fai bene, fai bene. Cazzo, c'è un cavo, Pupù, che non piglia lo stagno, come mai? C'è un cavo che non prende lo stagno, vuol dire che è nero, col cavetto di rame. Allora non serve? Grazie appena, con un coltello, lo grazie appena, e vedrai che quando mi passi lo stagno sopra lo prende subito. Sì, dopo la mattina a te ti arrangi giù, mi la buttassi a me. Già via io mi devo mattanare io, là. Allora io mi devo mattanare, no, stavo... Siccome avevano regalato una base magnetica, io ci avevo una bibanda, credo che sia bibanda, magari Natalino li conosce più di me. Te la ricordi quella che ci aveva fatto essere buci nella BM? La metà sai io, eh? Sì, quella che ci aveva il cerchietto in mezzo, mi sembra che sia una Diamond. Quella devi dare a me, se ti fai tu. Una di nero del zende, cosa te la faccio? Dimmi cosa te la faccio. Per ascoltare, tu cosa te ne fai? Vabbè, là, ciao, vado a cucinare. D'accordo, Natalina, a dopo. La cucina. Allora, sono di nella ratta, la cucina mi fa un po' ferito di vino. O di cosa, o di piruvero. Non va bene, lascia perdere Natalino, tu lo sai che io sono di quelli occhi punti, ce li ho piccolini, sono anche un po' miope, posso che ci punto. Vabbè là, chiaro che me la farà cucinare. Buona carica, buon tutto, ce la risentiamo dopo, dai. Avanti Natalino, popù. Non vuol dire che nel 58 nero c'hai, così è, il propositivo è nero. Cappa! E allora è imbattato l'acqua con il capo senz'altro. Allora, lo puliamo, cazzo mio. Sì, sai cosa fai? Rottieri, perché bisogna che mi faccio fare la cosa, la raniera, ciabole, antenne della FAC, dei cancellieri elettrici, vado sui 433 e monta le 1058, cioè 5,50 m. Adesso appena lo vedo me lo faccio dare un paio di quelle antenne, così, tutto dove le butta. Così almeno ti cambi il cavetto di quella magnetica in seguito. Ma guarda che se stasera scendi me lo metti tu, ce l'ho il carro, c'è PL pure, c'è tutto. Se così provavamo per due giocattolini. Possiamo anche provare, ce li hai qui così che vado di là. Ma se la metti c'è la faccia di Sigali, la magnetica te la faccio in macchina e così lo provi. Ma alla che ora vengo a prenderti? Io penso che questo è il mezzo a 5, là. Ma intanto andiamo pure a Limi, scende anche lì, perché così poi alle 8:30 andavamo assieme. Sì, vabbè, non c'è problema. Simone non vuole venire, quindi vengo solo io, poi chiediamo di mettere la fede. Ti cambio quel carretto e poi lo che penso andiamo direttamente là. Ah, Simone in pizzeria non ci vuole venire? No, che è... capito? Fa gna, non ce la fa più. Non abbiamo neanche chiuso la porta. Aspetta, vediamo un attimo Mario. Beh, poi quando lei si chiama. Pazzorro, Ma hai copiato lì o sei in BM, Argentino? Ah, sei in BM. D'accordo. Comunque, io, bacino bacino, gli altri due non ti hanno ascoltato. Adesso provo a interpellarli se ci hanno sentito in questo passaggio. Un attimo, è Zorro, che sento loro e poi ti rilancio. Oh, Giuseppe, l'hai sentito Zorro l'Argentino? È negativo, Mario, negativo. Perché lui ti sente, sì, a te che è a Vela, però voi a quanto pare non lo sentite, adesso chiedo a Vela. Vela, l'hai sentito da Zorro l'Argentino? Negativo, non lo sento. Cappagappa, mettete delle antenne buone, almeno sentite anche gli amici che sono piccoli. Mario, tornato in BM in questo momento. Cappa, anche lui però è in BM, lui è in BM Argentino. È copiato. Io ho copiato, Mario, ho copiato. Prova a far fare tu che lo senti, Mario, un passaggio all'amico Zorro. Vediamo un poco se riesco a agganciarlo adesso, cambio. Zorro, l'hai sentito Giuseppe che ti ha rilanciato? Giuseppe, lui ti ascolta basso basso, però ti ascolta. Sei tu che non ascolti lui, a quanto pare. Sì, adesso qualche passaggio sono riuscito a copiarlo anch'io, anche se un po' disturbato perché sono circondato da palazzi e vedo un pochino di uscirne fuori al più presto da qui. Ma riprendi tu, Vela. E capo, non me lo arriva proprio niente, nulla, zero. Magari arrivo io lì a Sentino, ma io qua non ci riesco, non ce la fa. Perché magari io gli arrivo, ma lui se non arriva, allora le antenne dipende da lui perché non c'ha abbastanza whisky. Di positivo. Ma tu sei al QTH adesso o sei in BM stesso? Bella. No, è al QTH adesso. Ma te dal QTH tu che sei messo bene, non riesci a tirarlo fuori. Io lo tiro fuori bene. Ripeto, il segnale non è forte, però la radio si capisce. No, per me quella zona lì, per me Mario, è sempre stata un po' negativa, anzi un po' me è negativa, quella zona proprio per me è tutta negativa. Sono aperto per tutta la zona, ma quella no. Scappa, riprendi Zorro, raccontaci com'è il mare. No, è così, non sei rimasti a capo di Valapicami, non fa nulla, no. Che è troppo tardi? Vabbè, io ho detto Valapicami, non ti ho detto l'orario, io se vado, vado sempre dopo pranzo. Ma sono una sessa di Lima Delta. Alla parte opposta, Gian Maria è su e io sono giù nel posto. E l'altro amico era in macchina, era in giro in Sassari, in mezzo ai palazzi, Giuseppe. E Vela è a casa sua, ha detto, ed è sempre a Lima Delta. E Zorro, cosa vuoi che ti dica? Loro purtroppo non ti sentono. L'unico sono io che ti sente. Gappa gappa. No, comunque io lo... Dico, non è che c'hai una radio molto forte, però diciamo che sei comprensibile. Gappa gappa. Comunque lo dico è che c'è un buon apparato, là. Non è così roncino, no. C'è un buon apparato lo Zodiac. Gappa gappa. Ma boh. E io adesso rilancio a Giuseppe perché se no rimane parchese e crede che sto parlando da solo, come gli scemi. Avanti Giuseppe. Sì, grazie per il mic Mario, tranquillo, siamo tutti con te. Ma ne approfitto giusto un secondo se mi puoi misurare un passaggio per cortesia Mario. Avanti. E vedi un po' Mario, prova sul canale 5 la parte di Tornado, cambio. 9:10 Radio 5, non brillante però, Radio 5 però non è quelle brillanti, belle pompose. sera. Grazie Mario, grazie. L'importante è che avere un buon Santiago in questo momento, circondato da mostre di cemento dove sto passando in questo momento. Cambio. Te lo vedi qua. E vedi che mi sembra accasato io a Bubù. È senz'altro sì. Arrivando proprio 20 qua, Radio 5. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno anche a te Pomponio, mi trovo in via Napoli in questo momento, cambio. Io ovviamente figurati i due nomi. Radio 5, perfetta. Quello non ho telefonato Giuseppe, no ancora. Però ci aveva dormito su Manzano, senz'altro. Ti spera che ti troverà la sera domani. E di chi gli stai parlando un po'? Di quello che ce l'ho io uguale, qua a casa. Ah, cappa, no, no, ancora negativo, non si è fatto sentire nessuno con tu. Ma dai, stasera ti chiamerà se stanza. Perché lui lavora la notte lì, alle 3 e 4 sembra se ne va via da qualcosa, quindi. Vedrai che ti telefonerà senz'altro. Cappa, appunto, speriamo, o per sì o per no, almeno avere una risposta a cambio. Vabbè, se non l'hai fatto tu vicini. Almeno sei tranquillo e non hai niente a spendere a fare. E certo, quello diciamo che riuscendo a prenderlo mi